50 domande su Gesù. Gesù volle realmente fondare una chiesa? La predicazione di Gesù era diretta in primo luogo a Israele, come egli stesso disse a quelli che lo seguivano. Non sono stato inviato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Sin dall'inizio invitava tutti alla conversione. Il tempo si è compiuto e il regno di Dio sta per arrivare. Convertitevi e credete al Vangelo. Però questa chiamata alla conversione personale non si concepisce in un contesto individualista, poiché è rivolta a riunire l'umanità dispersa per costituire il popolo di Dio che era venuto a salvare. Un segnale evidente che Gesù aveva l'intenzione di riunire il popolo dell'alleanza, aperto all'umanità intera, in compimento delle promesse fatte al suo popolo, è l'istituzione dei 12 apostoli, fra i quali mette Pietro a capo. I nomi dei 12 apostoli sono questi: primo Simone chiamato Pietro e suo fratello Andrea, Giacomo di Zebedeo e suo fratello Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota che poi lo tradì. Vedasi la domanda: chi furono i 12 apostoli? Il numero 12 fa riferimento alle 12 tribù di Israele e manifesta il significato di questa iniziativa, che è quello di aggregare il popolo santo di Dio, la Ecclesia Teu. I 12 sono le fondamenta della nuova Gerusalemme. Un nuovo segnale di questa intenzione di Gesù è che nell'ultima cena conferì agli apostoli il potere di celebrare l'Eucarestia, che aveva istituito in quella circostanza. Vedasi la domanda: che successe nell'ultima cena? In questo modo trasmise a tutta la Chiesa, nella persona di quei 12 che ne sono i capi, la responsabilità di essere segno e strumento della riunione iniziata da lui e che si sarebbe compiuta negli ultimi tempi. In effetti, la sua donazione sulla croce, anticipata sacramentalmente in questa cena e attualizzata ogni volta che la Chiesa celebra l'Eucarestia, crea una comunità unita nella comunione con lui stesso, chiamata a essere segno e strumento del compito da lui iniziato. La Chiesa nasce così dalla donazione totale di Cristo per la nostra salvezza, anticipata nell'istituzione dell'Eucarestia e consumata sulla croce. I 12 apostoli sono il segno più evidente della volontà di Gesù riguardo all'esistenza e alla missione della sua Chiesa, la garanzia del fatto che tra Cristo e la Chiesa non c'è contrapposizione, sono inseparabili, nonostante i peccati degli uomini che la compongono. Gli apostoli erano coscienti, perché questo è stato il comandamento di Gesù, del fatto che la loro missione si sarebbe perpetuata nei secoli. Per questo si sono preoccupati di trovare successori affinché la missione che era stata loro affidata continuasse dopo la sua morte, come testimoniato dall'elezione di Mattia al posto di Giuda negli Atti degli Apostoli. Hanno lasciato una comunità strutturata attraverso il ministero apostolico, sotto la guida dei pastori legittimi che la edificano e la sostengono nella comunione con Cristo e lo Spirito Santo, nella quale tutti gli uomini sono chiamati a godere della salvezza offerta per il Padre. Nelle lettere di San Paolo, pertanto, i membri della Chiesa sono definiti come concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sulle fondamenta degli apostoli e profeti, essendo pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. Non è possibile trovare Gesù se si prescinde dalla realtà da lui creata e nella quale si comunica ai suoi fedeli. Fra Gesù e la sua Chiesa c'è una continuità profonda, inseparabile e misteriosa, in virtù della quale Cristo si fa presente oggi al suo popolo.